si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Stiamo insieme fino alle 10, un'occhiata tra poco alle pagine dei giornali di oggi con la rassegna stampa, rapidamente arriveremo al giornale radio delle 8 e poi riprenderemo con i nostri appuntamenti, con i nostri approfondimenti, l'unico, l'inimitabile, il programma sempre a caccia di buone notizie. E poi apriremo il numero verde, giocheremo con voi, parleremo con voi. Per adesso 349-238-6666, se volete scriverci un sms, la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, oppure l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Giornali di oggi che naturalmente sono pieni, paginate sulla fine della giunta Marino, questa volta fine veramente, non ci sono seconde chance, e poi un po' di altre cose, notizie sparse. Andiamo a vedere, cominciamo, vai! Altre cose, tra cui per esempio l'intervista al presidente della BCE Mario Draghi sul Sole 24 Ore di oggi, tra poco la vedremo, in un momento abbastanza importante nel quale da un lato la Federal Reserve, la banca centrale americana, si appresta probabilmente a ritoccare il costo del denaro, i tassi di interesse al rialzo a dicembre, almeno queste sono le aspettative, cerca di capire che cosa farà l'Europa tra poco. Cominciamo però con la vicenda di Roma, naturalmente un po' di titoli giusto per capire che aria tira. Roma, commissario da Milano, e questo è il Corriere della Sera. Nominato il prefetto Tronca, qualcuno parla del modello Expo, perché di questo si tratta, con il prefetto Tronca. Il Repubblica invece scrive: Marino licenziato, accusa il Partito Democratico, 26 pugnalate, un solo mandante. Poi c'è chi come Messaggero scrive: via Marino, c'è il prefetto Expo, si dimettono 26 consiglieri, decade la giunta, il sindaco contro Renzi, il PD accoltellato, è lui il mandante. Gabrielli, il prefetto di Roma appunto, nomina il commissario Tronca, ma il nome arriva dal governo, dal ministro Alfano, d'accordo col presidente del consiglio Renzi. Tronca che arriva da Milano e sarà affiancato da un dream team. Chi come i giornali del centrodestra, per esempio il giornale scrive: sinistra marziana, disastro a Roma, i consiglieri Dem si dimettono, Marino cade, accusa il partito e il mandante Renzi, gli stessi che ora lo dipingono come un incapace ma che lo avevano scelto e difeso. Berlusconi intanto pensa a Marchini come candidato del centrodestra, può unire il centrodestra. Libero scrive: ignaro Marino, che se ne va. Restano gli scontrini nel PD. Beh, non è male questo titolo. Ignaro Marino se ne va, restano gli scontrini nel PD. Questa è la sintesi di Libero. Ma andiamo a vedere, per esempio, sempre sul Corriere, scelto uno dei registi del modello Expo. Il governo spiazza tutti. Tronca, che ha detto: sono orgoglioso e felice, sarà una sfida difficile, ma ho fiducia in me e nei miei prossimi collaboratori. È una scelta che spiazza tutti, tranne forse lui. Originario di Palermo, sposato, un figlio, il 63enne appassionato, studioso di storia del diritto italiano, vanta un rapporto di profonda stima e amicizia con l'attuale prefetto di Roma, Gabrielli. Hanno lavorato insieme sul disastro della Concordia quando Tronca era a capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Una scelta appunto che spiazza tutti. Renzi invece è convinto, parla appunto anche lui di modello Expo, che possa essere questa la carta vincente da giocarsi anche per il giubileo, vediamo per esempio un'intervista ad una dei consiglieri del PD che ha firmato le proprie dimissioni ieri dal Consiglio Comunale della Capitale, dando così il via alla decadenza, come si può dire, del Consiglio Comunale, quindi della Giunta e quindi di Marino, perché questo è quello che è successo. Anziché, diciamo, affrontare un dibattito in consiglio comunale, la maggioranza del PD ha deciso di dimettersi in massa, facendosi sostenere per arrivare al numero legale di 25 anche ad alcuni consiglieri comunali del centrodestra, di dimettersi per far decadere Marino. E insomma, è per questo che in rete girano appellativi, insulti a questi consiglieri del PD che, invece di affrontare appunto un dibattito, un consiglio comunale, di affrontare a viso aperto Marino, diciamo, lo avrebbero tradito, e di lì Marino a dire la pugnalata alle spalle. Lei è Michela Di Biase, la moglie del ministro Franceschini, tra l'altro, giovane moglie del ministro Franceschini, la prima a firmare le dimissioni, che è avvelenatissima nei confronti di Ignazio Marino, che 2 anni fa ha votato, sostenuto, eccetera, eccetera. Leggiamo. Ignazio Marino dice che l'avete accoltellato. Falso. Il suo è stato un suicidio. Chiede di capire quali errori ha commesso. Facile, vada in strada e lo domandi ai romani. Vedrà quante risposte. Autobus, pulizia, decoro. Un sindaco si deve occupare di tutta la città, non solo del Colosseo. Semplicemente non ha mai capito Roma. E la città non ha mai capito lui. Gli scontrini, non è quello il problema. Semmai lo è mentire anche a quei dirigenti del PD che l'altra sera lo avevano accolto in casa. Sembra di sentir parlare uno dell'opposizione, ma è una del PD. Michela Di Biase, 35 anni, moglie del ministro Franceschini. 10 anni di impegno politico nel popoloso quartiere alessandrino alla periferia di Roma. Marino dice che avete ucciso una squadra, non ha mai fatto squadra, ha preferito dividere, chiudersi, parlare solo con pochi, nessuno dei quali romani, non ha coinvolto il consiglio ma mai dialogato, ha chiuso i fori da solo. Dice di essere deluso dal PD. Il PD un errore può averlo commesso, forse già da un po' di tempo avremmo dovuto mandarlo a casa. Ripeto, sembra di sentir parlare l'opposizione, ma sono gli amici di Marino, gli ex naturalmente, amici di Marino. Poi, cos'altro? Su Repubblica, l'intervista a Orfini, commissario del PD, messo lì da Renzi per risolvere questa situazione, che ammette: ho fatto degli errori. Oh, meno male che qualcuno ammette di aver sbagliato qualcosa, perché o abbiamo sbagliato noi tutti che abbiamo assistito a questo delirio di situazione, oppure qualche errore lo avrà commesso Marino, lo avrà commesso il PD, lo avrà commesso Renzi, lo avrà commesso Orfini, che lo dice: ho commesso degli errori. Se a questo punto dice: non so se resterò al mio posto. Poi, a proposito delle famose bugie di Marino definito un bugiardo da molti che gli stanno vicino, al di là della vicenda degli scontrini per cui pure è indagato, dal momento in cui è andato dal momento di difficoltà più critica in poi, le bugie si sono moltiplicate. Sì, dice Orfini, si sono moltiplicate le bugie di Marino, che possono essere, ammette, uno strumento di difesa psicologica comprensibile, ma politicamente sono inaccettabili. Quindi le bugie di Marino che hanno convinto il PD romano e Orfini a scaricarlo. Il commento di Stefano Folli: Roma l'anno zero della sinistra, una bordata anche sul PD, perché dice Folli nell'epilogo amaro della vicenda Marino: il vulnus alla democrazia c'entra poco o nulla, non abbiamo assistito a un golpe contro il sindaco che si dipinge novello Allende dopo essere stato Che Guevara 3 giorni prima, la realtà è meno eroica, scrive Folli. Marino esce in scena per la sua incompetenza e i suoi reiterati errori, di sicuro il PD sballottato e confuso non è in grado di organizzare colpi di Stato. E questa, diciamo, è la bordata di Folli al Partito Democratico. Andiamo su un altro argomento, anzi c'è l'intervista a Berlusconi, anche lui oggi intervistato per esempio da Repubblica, dice che sosterrà Marchini a Roma, il nostro candidato. Poi dice: da oggi sono single, quindi conferma le notizie che lo davano separato dalla ex fidanzata Francesca Pascale. Ma al di là di questo, su Roma non credo che Giorgia Meloni punti a diventare sindaco, perché punta alla regione, dice Berlusconi a proposito della Meloni. Lei sarebbe un buon governatore. Al comune c'è già Marchini, e se proponessimo un altro candidato vorrebbe dire andare divisi. Marchini non l'ho visto, ma l'ho sentito di recente. Piace Marchini, piace soprattutto alle donne. E qui rispunta il solito Berlusconi, che fa questo tipo di ragionamenti estetico-politici. È una figura sulla quale si può puntare. A proposito di Milano invece dice che anche per il candidato sindaco di Milano, il centrodestra berlusconiano, ha un nome. Non brancoliamo nel buio, abbiamo un nome, una figura esterna alla politica che io ho proposto e piace anche a Salvini, di caratura internazionale. Non posso dire altro, altrimenti lo brucio. Chissà chi è questo quest'uomo di caratura internazionale che il centrodestra candiderà a Milano. E a proposito delle elezioni in America, sentite qua Berlusconi che dice e se vince la Clinton, lo spero. Lo spero, dice Berlusconi. Ho conosciuto i Clinton nel 94 e siamo ancora in buoni rapporti. Teoricamente Berlusconi, conservatore in Italia, dovrebbe sostenere il conservatore in America, Trump. E invece sostiene la Clinton, è la più preparata di tutti. Trump invece dice di ispirarsi a me e che vorrebbe chiedermi i consigli, ma se lo facesse il primo consiglio che gli darei sarebbe di tagliarsi quei capelli. E questo è il commento di Berlusconi sulle elezioni americane. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo, leggiamo l'intervista del Sole 24 Ore al presidente della BCE, Mario Draghi, tra un attimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati ancora con qualche minuto sui giornali di oggi, una rassegna stampa che ci porta fino al GR delle 8. Sulla prima pagina del Corriere la fotonotizia del nuovo naufragio, della nuova strage di bambini al largo della Grecia e della Turchia. La foto è quella di un bambino, ahimè è un corpo di un bambino ripescato da una delle navi del soccorso. Un'altra strage di bimbi, le accuse all'Europa. Doppio naufragio, morti 4 neonati e 9 bambini a largo di Kalymnos e Rodi, hanno perso la vita 22 migranti tra la Turchia e le isole dell'Egeo. Tsipras accusa l'Europa, chiusura in Germania, la Merkel sotto pressione. Cosa ci si riferisce? Si riferisce al fatto che in Germania il leader della CSU minaccia il ricorso alla Corte Costituzionale per fermare il flusso di migranti. Circola anche l'ipotesi di un ritiro dei ministri della CSU dal governo di grosse coalizioni. Una rottura storica sarebbe questa per la Germania e per la cancelliera Angela Merkel, che invece, lo sapete, anche se con alcuni tentennamenti, ha di fatto aperto ai rifugiati, ai siriani in particolare, ha detto li accoglieremo tutti quelli che arrivano. A proposito di immigrazione, una storia sempre dal Corriere la riporta a proposito del viaggio di Matteo Salvini in Marocco. Il Marocco incanta Salvini, porto tutti qua, l'elogio leghista che dice crescono più di noi, imprenditori italiani muovetevi. Succede che Matteo Salvini da giovedì è in visita istituzionale in Marocco e scopre che loro sono disponibilissimi a ragionare con l'Italia di immigrazione. Peccato che l'Italia se ne freghi. Il Marocco è una garanzia di stabilità per tutto il Nord Africa ed è un paese di grande tolleranza. La seconda religione qua è l'ebraismo. Ci sono investimenti miliardari da fare per il nostro paese. Il Marocco cresce del 5% all'anno, 5 volte l'Italia, anche se naturalmente, questo lo dico io, ha un'economia molto più piccola e quindi questo 5 volte la crescita dell'Italia vale una percentualina del PIL italiano. Ma tant'è, ha ragione sicuramente Salvini, ci sono delle opportunità di investimento per l'Italia straordinarie che sicuramente in parte saranno già state colte, ma sicuramente sono da cogliere. Dice se non viene il governo qua a investire io ci porterò i governatori, ci porterò Zaia e Maroni. Va bene, questo per quanto riguarda Salvini in Marocco. Ma dicevamo, l'intervista a Draghi sul Sole 24 Ore di oggi, in 4 anni è cambiato tutto. Rinizia così l'intervista di Napoletano e Alessandro Merli. Ricorda il novembre del 2011, presidente Draghi, tassi alle stelle, nessuno al mondo vuole comprare un titolo italiano, i bot a 6 mesi scambiati sul secondario all'8%. Che cosa le viene in mente oggi? Che è cambiato tutto, proprio tutto. Risposta secca del presidente della BCE Draghi. E poi si va avanti, cominciando per esempio sui rischi per la crescita dell'Eurozona, di cui ha parlato recentemente, il tentennamento sulle previsioni, perché insomma, dice Draghi, indubbiamente le condizioni dell'economia del resto del mondo si sono rivelate più deboli rispetto a pochi mesi fa, in particolare nei mercati emergenti. Con l'eccezione dell'India, le previsioni di crescita mondiale sono state riviste al ribasso. Probabilmente, attenzione, il rallentamento non è transitorio. Quindi diciamo il pessimismo, se vogliamo, di Draghi sulla congiuntura internazionale. Poi, a proposito delle prossime mosse della BCE, tagliare il tasso di deposito, che è già negativo, è prematuro fare questa valutazione, però è nell'aria, e Draghi nell'intervista dice che il valore dello meno 0,2% non è necessariamente un valore minimo. Quanto invece a quello che farà l'America, che si appresta probabilmente ad alzare il costo del denaro a dicembre, questo almeno potrebbe essere, sembra, sono le previsioni, potrebbe essere quello che accadrà. Draghi dice non c'è nessun legame tra l'azione della BCE e quella della Federal Reserve. Tutto il resto lo trovate naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. Chiudo con una segnalazione che riguarda Halloween. Le mie zucche alla conquista di Halloween è la storia di un agricoltore e imprenditore romagnolo che grazie a internet vende le sue zucche ornamentali in tutto il mondo. Marco Bianchi è la fotonotizia, è in prima pagina della Stampa. Ho puntato tutto sulle zucche da Rimini, le vendo negli Stati Uniti. Marco Bianchi, 26 anni, agricoltore, 10 anni fa, aveva 16 anni, ha convinto la madre ad acquistare il dominio su internet zuccheornamentali.com. Le ho detto: mamma, compralo, quello è il futuro. E evidentemente ha avuto ragione, perché adesso queste zucche, appunto, per Halloween le vende in tutto il mondo. Benissimo, ci fermiamo qua, è tutto per questa rassegna stampa. Ci ritroviamo con Si può fare invece dopo il giornale radio delle 8. A più tardi, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Si può fare, cronache da un paese migliore. Funk you up, uptown funk you up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Ben ritrovati, 800 24 00 24, vi aspettiamo in diretta per intervenire con noi, parlare con noi, raccontateci le vostre buone notizie, per esempio, della settimana. Siamo qua, tutte orecchie. Anzi, siamo molto curiosi, perché sì, ci piacerebbe sentire delle buone notizie di questa settimana che è stata comunque difficile. Poi vedo il mio Facebook che mi dice: buongiorno Carlo Giuseppe, sono un po' agitato, non so come mai mi sta salutando. Dice: è un piacere vederti qui, divertiti su Facebook oggi. Ma io oggi sono in radio, non devo fare niente su Facebook. Cari ascoltatori, tra poco parleremo, visto che è la giornata conclusiva dell'Expo, la grande esposizione universale. Beh, insomma, noi cercheremo di vedere che fine fanno i lavoratori, le persone che ci hanno lavorato, dipendenti, volontari. Sono tante persone che hanno trascorso 6 mesi chiusi là dentro. Adesso, io ho detto scherzando a un amico che ci ha lavorato, dovranno fare dei corsi di riadattamento alla vita normale, perché loro credono che quella sia la vita normale. Ma perché è un posto comunque straordinario, bello, al di là poi dei contenuti dell'esposizione, chi ci ha lavorato e ci ha visto, al di là delle code intensi, pensavo stessi dicendo, no vabbè, le code, ma ritmi intensi, ambiente internazionale, tante opportunità, tanti incontri, tutto molto bello. Però da domani finisce tutto, finisce. Ma che... mi chiedo, è una scelta o è stato deciso apposta di chiudere il tutto la notte di Halloween? Sembra uno scherzo. Sembra un po'. Non so se è dolcetto scherzetto, se è la notte dei morti viventi, o se comunque in qualche modo è insomma finire il giorno in cui il giorno della commemorazione dei morti. Allora. Non è un bel giorno per smettere di lavorare. Ecco. Allora, intanto oggi è Halloween, la commemorazione dei morti è lunedì. Ti correggo, perché sì, qua, sì, no, stanotte, giusto. No, io sbaglio sempre, santi, giusto. Hai ragione. Stanotte però, è Halloween. Però basta. Noi oggi, proprio perché insomma, con Halloween si apre questo 2 giorni di commemorazione dell'aldilà, dei morti. Vi chiediamo quali sono i morti che voi rimpiangete, riportereste in vita, cari ascoltatori. 800 24 00 24, si possono fare cioè questo esempi. È il nostro gioco, è il nostro gioco di oggi è chi vorreste che tornasse sulla terra, quale in particolare, darci una mano in questo momento difficile, non lo so, un condottiero del passato per l'Italia, Giulio Cesare. E lo dici perché dopo le 26 coltellate a Marino tu dici vorrei rivedere le 33 a Giulio Cesare. Oppure a proposito di Marino, che ha evocato Che Guevara, vorreste che tornasse in vita Che Guevara. Oppure non so, Sandro Pertini. Che tutti hanno sempre nostalgia. Io mi accontento di Berlinguer. È il momento per evocare i morti che vorreste che tornassero qui tra noi. 800 24 00 24. Andiamo. Vai. Altro che i lavoretti alla avanzata. Milano, voti 65. Smirne, voti 86. L'Expo Vaz. Milano, i suoi cantieri non si ferma più. Sistemano il salotto per le auto blu. Nel 2015 sai cosa c'è? Prepara l'Accadino. Milano inondata dagli espositori, la giunta è disponibile a gestirne i tesori. Milano ha un'occasione, Milano all'Expo, che poi lo fanno per oro. E come no? Expo, viva l'Expo, una pioggia di milioni, qualche goccia io ne avrò. Expo. E allora, eccoci qua, buongiorno intanto a Daniel Zanda, che è segretario della Felsa CISL della Lombardia, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora, con questi Vallanzasca, Expo, insomma oggi è l'ultimo giorno, qualcuno avrà la lacrimuccia, lo diciamo, soprattutto quelli che ci hanno lavorato, perché insomma in questi 6 mesi di ritmi intensi sono stati una esperienza comunque importante per chi l'ha fatta. Zanda, che fine faranno queste persone? Perché abbiamo letto titoli sui giornali in cui si diceva accordo sul futuro dei lavoratori di Expo, allora ci si è aperta la speranza. Hanno un futuro queste persone oppure tutto andrà a scemare? Ma guardi, le do, se vogliamo, come dire, una notizia un po' inaspettata, cioè alcuni lavoratori si sono anche già ricollocati. No, alcuni, sto dicendo. Beh, questa alcuni, è un'ottima notizia, ne siamo felici. Nel senso appunto che al di là chiaramente di quelli che sono gli accordi che adesso cercherò brevemente di raccontarvi. Sì. Appunto la gente spesso e volentieri è molto più responsabile magari sia delle parti sociali sia anche delle istituzioni. Tra l'altro noi avevamo fatto degli accordi con... Non ho capito, scusi Zanda, in che senso le persone sono più responsabili? Cosa vuol dire? Nel senso che prima del termine dell'evento, prima del termine dell'esposizione, sì, noi abbiamo fatto degli accordi in modo tale che i lavoratori potessero richiedere un pizzico di flessibilità magari in entrata o in uscita, una maggiore elasticità nella richiesta di permessi, proprio perché i lavoratori stessi già da settembre si erano iniziati a guardare intorno e quindi avevano iniziato già fin da subito a mandare anche loro curriculum su internet, certo, o presso le aziende e quant'altro. Noi abbiamo dato una mano attraverso appunto alcuni istituti contrattuali cercando di adattarli, no? Proprio per questa loro esigenza, e alcuni di questi, perché chiaramente siamo in rapporto, ci sentiamo, ormai appunto è diventata quasi come dire un'amicizia, e appunto ecco, alcuni di questi ci hanno detto... abbiamo già trovato un posto di lavoro. Perfetto. Ma questo è normale, nel senso che in tutti i lavori precari uno mentre sta finendo il lavoro intanto manda il curriculum, esatto, e inizia. Non è diciamo una peculiarità di Expo questa. Ecco, facciamo un po' di ordine allora. Quali sono i numeri? Intanto quante erano le persone occupate? Allora, le persone occupate siamo intorno appunto alle 15.000 lavoratori all'interno del sito espositivo. Ok. Di questi 15.000, quanti, diciamo, per quel che riguarda gli accordi che avete fatto voi o che lei sappia, diciamo, hanno firmato degli accordi per cui andranno incontro a un ricollocamento, oppure quanti invece perderanno il lavoro, per quello che sapete voi adesso? Quelli che sono appunto gli accordi stipulati con i nostri interlocutori naturali come, come sindacato che rappresenta gli interinali, quindi l'Agenzia per il Lavoro, che hanno comunque la fetta rilevante di, di questi 15.000, al momento con l'ultimissimo accordo che sottoscriviamo stamattina con l'agenzia Synergy, un'altra agenzia per il lavoro, superiamo le 5.000 unità, cioè quindi superiamo i 5.000 lavoratori coinvolti. Sì, perché le agenzie interinali impegnate nel collocamento delle persone su Expo erano Manpower, G-Group, Open Job Metis e Synergy pure, che ci ha appena citato, impegnati nelle funzioni più diverse, dalla sicurezza alle pulizie, la ristorazione in gran parte e anche altre cose. Quindi circa 5.000 già ricollocati, questo comunque è un buon risultato. 5.000 che, come dire, verranno avviati un percorso di ricollocazione. Ok. Non è che sono, quindi non automaticamente. No, verranno avviati un percorso di ricollocazione. Che cosa vuol dire? No, questo? Appunto, per farle un esempio, poi alcuni accordi sono differenti, cioè l'accordo con G-Group è differente da quello di Manpower, ma perché, come dire, cambia anche la platea dei destinatari, cioè per dire G-Group aveva principalmente lavoratori appunto nel settore turistico e della ristorazione, e quindi per fare un esempio all'interno di questo accordo, cioè, comunicato proprio negli scorsi giorni G-Group, perché oltre a fare l'accordo noi cerchiamo di monitorarlo, che l'ultimo modulo del loro percorso di formazione per questi lavoratori, G-Group ha già individuato due imprese leader nel settore, che non faccio il nome per dovuto rispetto, ma che però si sono date assolutamente disponibili a far sì che i lavoratori l'ultimo modulo di formazione lo facessero nelle loro aziende, e quindi appunto, come dire, nel verificare, nel provare effettivamente quelle che sono le potenzialità di questi lavoratori, quindi per dire che non è una formazione come faccio la formazione tanto per farla, ma avendo già individuato anche delle imprese che hanno dato la disponibilità ad accoglierli, c'è un interesse reale. Oppure l'altra particolarità invece dell'accordo su con Manpower è quello della certificazione delle competenze, e questo è un fattore importantissimo, per quello appunto anche che si accennava all'inizio, cioè dei lavoratori che hanno maturato in questi sei mesi quelle che nel gergo vengono definite le soft skills, sì, cioè la capacità di adattamento, la capacità del problem solving. Cioè, per fare un esempio, io immagino che una grossa azienda del settore commerciale non li vede mai passare 20 milioni di clienti in sei mesi, e loro li hanno visti questi lavoratori, quindi hanno la capacità di gestirle certe cose, e il fatto di poter certificare quindi queste competenze trasversali che non si imparano a scuola è secondo me un fattore importantissimo per quanto riguarda anche proprio la costruzione della loro professionalità. Considerato che la strada sono giovani, quindi magari anche alla prima esperienza lavorativa. Sì, perché una delle cose che si è detto in effetti è che questi sei mesi per chi ci ha lavorato, vissuti appunto a ritmi intensi dentro Expo, a contatto con un ambiente internazionale, conoscendo un sacco di gente, sicuramente probabilmente in termini professionali in certe figure, magari non in tutte, valgono più che sei mesi fatti in un altro contesto. Tra l'altro voglio raccontarvi anche questa storia, si può trovare lavoro grazie a Expo anche in questo modo. È la storia di Ivan Dignoti, 22enne siciliano, Carlo, incredibile, che si è registrato un video facendo un salto ogni giorno davanti ad un padiglione diverso, una cosa che poi ha cominciato a girare in rete, è diventato virale, una cosa che ha avuto successo, tanto che questo ragazzo qua, 22enne, originario di Palermo, ha trovato lavoro presso una compagnia aerea che gli ha affidato la prossima campagna pubblicitaria, praticamente. Beh, bellissimo. E questa è una storia tra le tante. Ce l'abbiamo un pezzettino dell'intervista che ha fatto la collega del giornale radio Olivia Zancaner a questo fantasioso ragazzo siciliano che ha trovato lavoro grazie a Expo in questo modo. Sentiamolo. Un salto nel mondo, si tratta di un progetto fotografico che sto realizzando appunto nel tempo libero dal lavoro in Expo, e realizzo degli scatti fotografici davanti a ogni padiglione dell'Expo, saltando, quindi facendo dei veri e propri salti. Ho pubblicato queste foto sui miei social. Sono stato contattato da diverse aziende, una compagnia aerea che mi darà la possibilità di realizzare il progetto Un Salto nel Mondo proprio nella realtà, quindi realizzando dei salti proprio nelle città e nei paesi come Ginevra, come Bangkok, come Punta Cana. Racconteranno una web story in cui io sarò protagonista e quindi sui loro social promuoveranno le loro destinazioni col mio volto. Vabbè, questa era insomma una storia, una tra le tante storie, una storia curiosa. Magari non saranno è un'ottima notizia. Un'ottima notizia, magari non saranno stati tutti fortunati come questo ragazzo siciliano. Zanda, però, segretario Felsa CISL, a questo punto, volendo fare un bilancio, in termini di proprio di occupazione, no? Questi sei mesi di Expo, sicuramente per chi ci ha lavorato sono un bilancio positivo. Adesso siamo alla chiusura. Che bilancio da chi si occupa dei lavoratori è in grado di fare il sindacato a questo punto? Ma allora, se posso fare una piccola premessa, cioè innanzitutto che Expo ci ha fatto vedere uno spaccato della realtà che spesso, come dire, è un po' diverso da quello che magari anche viene raccontato dai dati che vengono trasmessi, perché chiunque, al di là degli addetti ai lavori, però chiunque entra in Expo, cioè si vede uno spettacolo dal punto di vista dei lavoratori, perché appunto sono tutti quanti giovani, sono tutti quanti che sono stati presi e che arrivano da tutta Italia, cioè quindi non di quelli che solo se posso il lavoro è sotto casa lo accetto oppure no. Gente che mi raccontava che è arrivata a Milano dalla sera, cioè dal pomeriggio alla sera per iniziare a lavorare dopo due giorni, e quando è arrivata a Milano non sapeva neanche dove andare a dormire. Quindi perché non aveva fatto tempo. Un bilancio positivo, mi pare di capire, soprattutto per le energie che si sono mobilitate. Assolutamente sì, assolutamente, cioè nel senso abbiamo visto un pezzo di realtà di giovani che vogliono superare questa situazione qui, che non si accettano addosso l'etichetta di quelli che non vogliono né lavorare né studiare, ma anzi abbiamo visto esperienze di chi stava studiando l'università ma ha fermato momentaneamente i propri studi perché voleva cogliere un'esperienza straordinaria come quella di sei mesi di Expo, per poi appunto terminati questi sei mesi, che ci ha già detto, per fare un esempio, guardi, è un problema se io non accetto o comunque rifiuto il percorso di ricollocazione, faccio come mai? Perché mi mancano ancora 4-5 esami che devo finire di laurearmi, faccio ci mancherebbe, è come dire, è una scelta più che legittima, quindi come dire... Prima di studi, sempre prima di studi, come potrebbe consigliare ogni brava mamma. Grazie Zanda, grazie per essere stato con noi. Grazie in bocca mille. Al lupo, grazie a voi, a lei, ma soprattutto a tutti i lavoratori di Expo e anche a quegli altri, anche a chi non ha lavorato. Anche chi non ha lavorato a Expo, sì. Perché ovviamente è molto bello questo accordo tra i sindacati e i lavoratori di Expo. C'è anche chi dice: ma noi che non siamo riusciti a lavorare a Expo e adesso come rimaniamo? Perché non abbiamo neanche questo stavamo nuovo corso. Male prima e stavo male adesso. E adesso però insomma è giusto e benvenga. Intanto stanno arrivando già un po' di messaggi. Sì. Potete mandarci i messaggi al 349-238-6666. C'è chi chiede il ritorno di Gesù Cristo, di Pertini, come hai detto tu stesso. Lo sapevo che Pertini. E poi abbiamo anche una Moana Pozzi, così in omaggio. Funzionava. Ah, anche Moana Pozzi, benissimo. 800-24-0024, tra poco anche con i vostri interventi. Beh, insomma, in termini di bilancio voglio aggiungere solo una cosa. Sono stati toccati 21 milioni di biglietti venduti. L'obiettivo era 24, quindi qualcuno vede il bicchiere mezzo vuoto. Beh, c'è ancora tempo fino alle 17, giusto? Sì, visto le folle che stanno andando negli ultimi, negli ultimi giorni, secondo preparato. Me. Vedo che sei preparato. Bisogna, oggi, chi vuole andare in Expo, a tempo fino alle 17. Non si entra oltre quell'ora, non andate oltre. A ridosso di quell'orario perché non ha senso. Ma andate a quell'ora perché poi dalle 17 potete invece rimanere in coda fino a mezzanotte, mi sembra. Si può rimanere in coda fino a novembre. Quindi 21 milioni sono meno di quelli di Shanghai, dell'edizione di Shanghai, che furono staccati ben 73 milioni di biglietti. Vabbè, ma quella è la Cina. Solo i cinesi si sono mossi in massa, quindi più però di quelli della precedente Expo in Germania, quando furono 18 milioni. E quindi, insomma, c'è già la classifica degli Expo, insomma, siamo in alta classifica. Ho come voluto Expo. Fare questa classifica. Giusto. Per situare così un po' il numero dei biglietti venduti all'interno di alcuni parametri di riferimento. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Un senso di stanchezza misto ad un sentimento di malinconia, la saudade brasileira, che pare trasformare tutti i turisti in un vecchio e triste Vinicius de Moraes, dopo la quarta bottiglia di whisky. Oi, che coda mas lunga, l'Expo c'è la massa, son qui da 6 ore, non ho visto una mazza, mi conveniva andare a Hong Kong. Va bene, questo è Crozza in coda all'Expo, anche lui, mesto e triste. Ci mancherà Expo però, perché al di là di tutto poi è stato un argomento gigantesco, Milano al centro di tutto ciò, il cibo. Stasera alle 18, speciale di Radio 24, dedicato proprio alla chiusura di Expo. Va bene, ascoltatori, siete in linea, cominciamo con Filomena che ci chiama da Salerno. Buongiorno e benvenuta, Filomena. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Su cosa volevo intervenire? Io volevo desiderare di far tornare in vita Totò. È un personaggio che adoro, trasversale a tutte le epoche, fa ridere, sorridere, va bene in ogni situazione, in tutte le salse. Lo cerchiamo con mio marito sa d'estate quando ci sono repliche su repliche che però non piacciono. Noi cerchiamo un Totò, neanche un film di Totò, ma un Totò, anche di quelli visti un milione di volte. Ci sta che sempre però bene. Ci sta sempre bene. Bene. E c'è secondo lei però Filomena un erede di Totò oggi che la fa ridere come Totò? Secondo me no. Io adoravo Massimo Troisi e mi sembrava che potesse esserlo, però lo abbiamo perso. No, oggi penso di no. Oggi per far ridere credo che abbiano tutti bisogno di agganci all'attualità, alla politica. Un pizzico di volgarità, Totò non aveva bisogno di tutto questo, forse per questo è rimasto trasversale a tutte le epoche, a tutte le situazioni. È un gigante Totò. Sì, poi siccome chiedevamo è perfetto assolutamente, e chiedevamo anche qualcuno che potesse risollevare l'Italia. Direi che candidiamo Totò a sindaco di Napoli sicuramente. Io lo voterei. Grazie Filomena, buona giornata. Bene, grazie mille, buona giornata. Sandra D'Ancona, buongiorno, benvenuta. Ciao, buongiorno. Sandra. Io desidererei che potesse resuscitare un Leonardo da Vinci. Vola in alto, Sandra, cioè punta altissimo. Ma nella logica di una ricerca e sviluppo, che forza trainante sarebbe per un mare di giovani che hanno una potenzialità notevole nel nostro paese, e quindi sarebbe eccezionale. Se dovesse reincarnarsi oggi Leonardo da Vinci in un personaggio esistente, chi potrebbe essere secondo lei un italiano vicino a Leonardo da Vinci? Chi sarebbe? Vicino a Leonardo da Vinci è difficile, perché lui è stato un genio universale, patrimonio dell'umanità, quindi quelli ne nascono uno ogni 500 anni. Allora ci siamo quasi, direi che ci siamo, perché se non ricordo male è morto intorno al 1500, siamo nel 2000, esatto. Uno ogni 500 anni tocca. Però dà anche soddisfazione quando senti che vengono nominati dirigenti del CERN, delle giovani ricercatrici italiane. Insomma, in un paese così piccolino noi abbiamo dato molto all'umanità e ancora penso che potremo darlo. Ora uno come Leonardo, ripeto, abbiamo la speranza che possiamo ritrovarlo, però insomma penso che puntiamo alto perché possiamo farcela. Va bene. Sono parole stupende, direi che per un programma che si chiama Si può fare, direi che puntiamo alto perché possiamo farcela e speriamo che torni Leonardo da Vinci. La ringraziamo moltissimo. Grazie Sandra, grazie. Abbiamo forse un'altra ascoltatrice in linea, Maria Lia da Roma, buongiorno. Buongiorno, riportare in vita Andreotti, perché è l'unico politico che capiva di politica, mentre questi di oggi fanno proprio una gran pena. è una risposta, Andreotti, è una risposta interessante, perché è una risposta sincera in qualche modo, o è un po', come dire, ironica? Tutto all'estero come coso, questi di oggi sono dei pupazzi, dei burattini e delle cose inguardabili. Ma qual è la virtù di Andreotti che rimpiange di più? La virtù di Andreotti, capire l'attualità, essere uno stratega, che capiva esattamente la politica ed era veramente un vero politico, mentre quelli di oggi assolutamente sono proprio inguardabili. È strano, perché vero politico a volte viene usato quasi in senso dispregiativo, nel senso che la politica di una volta, quando si dice, no, tutti rottamatori, certo, tutti dicono, quindi vicino alla mafia, era un vero politico, quindi è interessante la posizione. Sì, no, per me era veramente un politico. No, ma che se fosse un politico non c'è veramente il minimo dubbio. Il problema è che c'è anche chi è molto critico nei confronti di certe scelte di Andreotti, quindi è interessante. Solamente che d'accordo, perché i politici oggi non hanno, uno non può essere critico con, ma certo, idioti. Ma totalmente, anzi, secondo me c'ha molta ragione. Non sanno che cosa vuol dire far politica, sono delle banderuole che a seconda del vento si spostano oggi a destra, oggi a sinistra, domani al centro e compagnia bella. Ma no, quindi è la coerenza, è la coerenza di Andreotti, mi sembra di capire, che rimpiange molto. Il fatto che all'estero fosse riconosciuto come il politico vero, questi di oggi fanno solo ridere. Vabbè, è riconosciuto anche per una sentenza poi prescritta, per quella questione sulla mafia, cioè non mi ricordo esattamente, prescritta. Che non era uno stinco di santo, ma le schifezze di quelli di oggi, dove le mettiamo? Giusto, lei dice schifezza per schifezza, preferisco qualcuno che poi sia coerente e credibile all'estero. È un po' questa la teoria, no? Il politico fa delle porcherie, però in cambio almeno ci portiamo a casa un politico bravo, secondo questa teoria. E Andreotti, secondo la signora, lo sarebbe stato. Si aprirebbero discussioni oceaniche. Però in parte condivido, nel senso che secondo me i politici di oggi devono veramente guardarsi in faccia e dire: stanno facendo rimpiangere Andreotti. Beh, mi sembra molto chiaro. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Presto bottega che la già presto. Che bel vivere, è bel piacere, è bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Insomma, certo che tra tutte le persone che si potrebbero riportare in vita adesso, io non avrei sprecato la mia occasione per Andreotti. Cioè, tra Gandhi, qualcuno ci scrive Giuseppe Garibaldi, certo, proprio. Vabbè, Andreotti, ognuno... il clientelismo, il debito pubblico, io forse non avrei. Ognuno, però vedi, la fantasia, avendo noi chiesto anche qualcuno per l'Italia, insomma, per risollevare non lo so se Gandhi, in questo momento Gandhi in Parlamento non lo vedo molto. Dici che anche per molto Gandhi l'Italia facile. Sarebbe un'impresa persa, chi lo sa. Allora, sulle note di Elio e del barbiere di Siviglia, una notizia che viene da Napoli, perché dopo il caffè sospeso, dopo il libro sospeso, arriva anche il taglio di capelli sospeso. Potrebbe essere questo un po' il senso della signori. Notizia. Lui è il titolare di Hair Studio 76 a Vico Due Porte a Toledo, a Napoli. Salvatore Visone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovati. Un gesto di solidarietà al suo, lei è titolare di un come si dice, di un negozio, salone. Di un salone di un salone di parrucchiere. Di parrucchiere, e ha deciso di fare che cosa? Di regalare il taglio di capelli praticamente alle donne del quartiere che non se lo possono permettere. Sì, allora l'idea nasce nei momenti di pausa dal lavoro, che sto là a guardare le persone che passano. Sì. Vedo passare queste signore anziane che guardano il salone, sai, poi abbassano la testa e vanno via. e non hanno nemmeno il coraggio di chiedere quanto costa. Cioè, si capisce ad occhio nudo che sono persone che vivono con pochi soldi. E ce ne sono tante, Salvatore? Ce ne sono tante, Salvatore, che passano sì, così? Ce ne sono, perché io che lavoro con le donne me ne accorgo subito, sai, donne con i capelli bianchi, non curati, lasciati un po' più lunghi. Già lei vede passare una con i capelli bianchi, non quella, già si immagina che taglio potrei farle, come potrei ringiovanirla un po', già vede il risultato, sì, del suo lavoro, quale potrebbe essere. Dici la signora comunque non è una cliente di un parrucchiere, perché economicamente non ce la può fare, perché con una pensione minima non riesce a mettere soldi da parte del parrucchiere. Perché allora, quanto costa da lei il taglio? Quanto costa lei taglio e messa in piega normalmente? Da noi ne abbiamo un prezzo molto basso, noi prendiamo 25 euro taglio e piega. Ok, però per qualche pensionata al minimo anche 25 euro una volta al mese o anche di più non sono accessibili. E quindi lei, Salvatore, ha deciso di farlo veramente mercoledì scorso, se ho capito bene. Lei sì, ha aperto il salone. Mercoledì 28. Il salone già è attivo da anni. Sì, no, dico, ha aperto il salone a queste signore che sono entrate. E quante donne ha fatto il taglio? Mercoledì sono arrivate 6 persone, noi avevamo proposto fino a 20 persone. Però visto che la notizia non è andata sul cartaceo, cioè è andata soltanto sul web, e dal web qualcuno ha informato le signore un po' più anziane. Eh sì, perché le signore non vanno sul web. Adesso ne parliamo in radio e secondo me avrà la fila, perché io trovo che sia un gesto bellissimo, anche perché molto spesso giustamente ci si occupa di emergenze, del fatto che ci sono persone che non possono mangiare, ci mancherebbe altro, ed è fondamentale. Però anche queste, anche gesti che uno pensa che siano superflui, in realtà per una donna o anche per un uomo, cioè il fatto della propria immagine, della propria persona, io trovo che sia una cosa sicura, esatto, trovo che solo quei 20 minuti è gratificante per chiunque, cioè essere coccolati per 20 minuti senza sapere che dopo devo pagare su questo impegno che non ce la faccio. Noi l'abbiamo fatto col cuore. C'è stato, Salvatore, c'è stato qualche momento di imbarazzo con queste signore, oppure diciamo il fatto di ricorrere a questo espediente, alla sua generosità, non crea imbarazzo nelle signore? No, perché essendo persone anziane, cioè ti guardavano con gli occhi lucidi, allora erano contente e basta. E lei vuole ripetere, abbiamo pochissimi secondi, questa iniziativa per Natale, quando? Lo ripeteremo i primi di dicembre. Abbiamo trovato anche una trattoria molto nota ai quartieri spagnoli che ci aiuterà, e dopo i capelli pure la cena regalerà. Sì, ho un pranzo, una cena. Vabbè, ma è bellissimo, bellissimo. Grazie Salvatore. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Di questa notizia natalizia, quasi, direi in anticipo. Vico, Due Porte, quartiere Toledo, a Napoli. Salvatore, Hail Studio 76. Noi ci fermiamo qua. 800 24 0024, cari ascoltatori, ci troviamo fra pochissimo con Erpiotta. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Si può fare, cronache da un paese migliore. Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte tue. Questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma, ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume, che paure non ne hai avute mai. Donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, nuda come la bellezza, grande come Roma, santa e dissoluta Roma, ma non perdona, Roma derivora come in barracuda, Roma nuda, nuda, nuda, nuda come la bellezza, grande come Roma. È Romano, è l'autore di questa canzone, Sette Vizi Capitali, l'avrete riconosciuto, è l'autore tra gli altri di una petizione Peccato Capitale che chiede di fermare gli sgomberi dei Rom a Roma nell'anno del Giubileo, ed è la persona più adatta per parlare adesso di questo, ma anche della situazione di Roma, con noi Piotta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao, ciao. Grazie. Buon sabato. Svegliare un musicista il sabato mattina è sempre un'impresa abbastanza significativa, intanto. Significativa, ma stamattina ero pronto perché sto per andare al primo memorial per Stefano Cucchi, sì, qua al Parco degli Acquedotti, per cui sono già con la tuta. Fantastico, e giusto. Carico. Senti, hai sentito il nostro cosa chiediamo agli ascoltatori oggi? Insomma, oggi è Halloween, lunedì si festeggiano i morti. Tu ce l'hai un morto che vorresti vicino a te, che vorresti che tornasse tra noi per renderci tutti migliori? Assolutamente sì, ed escludendo i familiari che sarebbero i primi logicamente, però rimanendo nel mio mondo, sì, più musicale, io farei John Lennon. No, Piotta, più John Lennon, più no, vicino a noi, sia a Roma che a Milano, perché farei una accoppiata, Iannacci e Califano, che sono scomparsi praticamente a 24 ore distanza. Che scelta, eh? Ognuno col suo percorso logicamente molto differente, molto particolare, ma incisivo, insomma. Cioè, se metti insieme Iannacci e Califano, già vedo Piotta. In effetti è vero, da un certo punto di vista Mi sembra una bellissima sintesi, sì, soprattutto poi nel momento in cui Cantone dice Milano è tornata la capitale morale, quindi riaccendendo la lotta Roma-Milano, sì, sì. Invece questa unione Iannacci-Califano mi sembra molto molto bella. Come la vedi questa cosa di Cantone? È vero che Roma non ha più gli anticorpi? Poi dopo Cantone ha detto no, ma io non volevo dire eccetera eccetera, però intanto ha lanciato un po' la pietra nello stagno. Forse si è fatto un po' prendere dalla location, cioè nel senso che per dirla alla milanese, se posso alla dire location, sì, no, farsi prendere dalla location è molto da milanese. Spesso a volte accade ai concerti, se il pubblico migliore, sì, perché magari in certo città, secondo me in realtà c'è, cioè, la cosa che ho trovato un po', cioè, molto discutibile, non è tanto la gara Roma-Milano, che non ho mai apprezzato, avendo poi avuto mia madre di Milano, per cui non c'ho nessun campanilismo. Nemmeno io l'apprezzo questa battaglia. La storia con la S maiuscola è molto lunga, per cui insomma tutto può accadere, però mi interessa il fatto di questo senza anticorpi, cioè mi sembra molto brutto nei confronti di tutti quei romani che invece, o comunque abitanti a Roma, che ogni giorno ci credono ancora, cioè si impegnano tanto in questo senso per migliorare la città, che sicuramente non versa in un periodo florido, né economico né tantomeno politico, però contiamo anche, sbattendoci per dirla alla romana, di risalire la china. Senti, ma oggi questi romani qua, come tu dici, che hanno gli anticorpi e che invece si impegnano ogni giorno per avere una città migliore, più pulita, trasparente, che funziona, eccetera, come vivono la caduta della giunta Marino? Come una liberazione? Tu l'hai sostenuto, Marino? Io all'inizio sì, cioè, ed ero anche piuttosto curioso e convinto, insomma, che sì, potesse cambiare le cose, e probabilmente all'inizio, cioè sicuramente ci ha provato, all'inizio c'è anche in parte riuscito. Ma parli delle elezioni quando dici inizio, scusa? Sì, sì, parlo dell'inizio, sì, del suo percorso. E poi evidentemente si deve essere rotto qualcosa a livello politico, non so se appunto per un discorso più politico legato alle sue capacità, e siamo finiti nel caos più totale, quello degli ultimi giorni, trovo che sia un po' imbarazzante per tutti. Cioè un po'... Quindi era giusto che finisse così a questo punto, cioè così magari no, perché è finito nella farsa con, ricordiamolo, i consiglieri comunali che si sono dimessi per far sì che Marino decadesse, Marino che aveva ritirato le dimissioni, per far sì che i consiglieri comunali gli chiedessero le dimissioni, cioè l'ho detta, è confusa, ma è questa la no, verità. È come se l'hai detto bene, è talmente che irrazionale, confusa, sì, dal punto di vista politico avrà una sua logica, però quello che dico è che al di là poi del fatto degli scontrini, che poi insomma indagherà chi di dovere, sarebbe inutile governare una città da soli senza il supporto di alcuno, alla fine parliamo di politica, per cui cioè, dove vai da solo? Cioè, inevitabilmente è finito come sembrava. A questo punto forse era meglio uscire con l'ultimo gesto, quello eclatante, che tra l'altro secondo me è sbagliato, di restituire i 20.000, perché in qualche modo è un errore anche quello di comunicazione. situazione. Ha sbagliato a dire il regalo. Soprattutto dicendo il regalo, perché lì uno dice: se li hai presi non li regali, li stai restituendo. Se non li hai presi non capisco perché li dai. Sì. Quindi... Esattamente. Comunque ecco, una città grande come Roma non, insomma, non merita un finale di questo tipo. Devo dire che meriterebbe anche delle elezioni, perché mi piacerebbe insomma andare a votare a breve, secondo sì, i tempi questo... appunto della legge. Temo che non finirà così, anche perché c'è insomma la scusa del giubileo. In realtà certo il giubileo è molto importante, è straordinario, ma straordinario fino a un certo punto, nel senso che comunque non è certo il primo giubileo, credo che si possa e sì. si debba comunque fare adesso più. Adesso parliamo anche del giubileo, della misericordia e del vostro appello contro gli sgomberi dei campi rom, però io credo che le elezioni tanto presto non arriveranno, perché Renzi le vuole rimandare il più possibile, perché adesso maggio, si parla di maggio, giusto? Esatto, adesso a Roma Piotta ci sarebbe un'autostrada aperta per il Movimento 5 Stelle, o sbaglio? Io la vedo qua da lontano da Milano, però il centrodestra praticamente non, quasi non scende in campo, perché Berlusconi ha detto che candiderebbe Marchini, che è un candidato di un altro. Ma Marchini che sta esattamente a metà, per cui forse lo vogliono un po', sì, un po' tutti. Lo vogliono un po' lo tutti. Vogliono un po' tutti, bisogna poi vedere se qualcuno sarà disposto a votarlo. Il PD in questo momento diciamo, si è praticamente suicidato da solo. E quindi il Movimento quindi 5 sembrerebbe, Stelle sembrerebbe che il 5 Stelle abbia insomma una strada facile, larga e veloce. Poi la politica insegna che spesso ciò che sembra non è quello. Può cambiare tutto. Ma pensi che sarebbero in grado quelli del 5 Stelle di governare Roma? Ma io penso che sarebbero in grado, e logicamente sarebbe anche un grande esame, perché loro per bellissimo. Ora hanno governato delle realtà più piccole, per quanto insomma Parma Livorno, certo. Quindi sarebbe una grande sfida anche per loro. Sicuramente, guarda, c'è voglia di qualcuno che di qualche novità. Cioè, ho sentito anche secondo qualche me. Giorno fa Rutelli. No. Ecco, cioè, magari no. Cioè, almeno provarci a cambiare tutto e a riprendere in mano questa città. Al passato, non al futuro. Ci fermiamo per una piccola pausa per il traffico. Poi torniamo con Piotta, parliamo della petizione, l'appello peccato capitale. L'hashtag lo trovate su Twitter. Ci ritroviamo tra pochissimo, 800 24 0024. Ascoltatori, continuate se volete a chiamare per dirci chi vorreste che tornasse vivo tra noi oggi, magari anche per dare una mano all'Italia. Ci sono dei messaggi, delle curiosità. Io ho visto prima Garibaldi, stanno arrivando un sacco di chiamate su questo e anche di messaggi. Ma Brotti ancora, vabbè. Un altro che dice: io vorrei che tornasse Gesù Cristo per chiedergli se tutto quello che ci ha raccontato Gandhi. La Chiesa in 2000 anni è vero o no. E questo mi sembra una buona domanda, che tra l'altro secondo me è uno dei buoni motivi anche per far tornare Andreotti, un po' per chiedergli un sacco di cose come sono andate realmente, un po' quella famosa battuta che non ricordo se era di Benigni o se era di Beppe Grillo, che diceva: io vorrei che il giorno in cui Andreotti muore vorrei staccargli la gobba dove nera. Dentro c'è la scatola nera per sapere tutti i segreti e d'Italia. Questo già sarebbe un buon motivo per farlo tornare in mezzo a noi. Traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini. In collegamento telefonico con noi Piotta da Roma e all'SMS ci scrivono: rivorrei Enrico Berlinguer, rivorrei Sandro Pertini, oppure... Ah, beh, poi un ascoltatore ci bacchetta perché abbiamo detto, o io o te, che si festeggiano i morti, invece i morti si commemorano. No, abbiamo detto la commemorazione dei morti, e tu giustamente mi hai detto non è oggi, ma la commemorazione dei morti è il 2, però giusto? Però cerchiamo di essere precisi. No, assolutamente, perché, ma se c'è un errore l'ho fatto io di sicuro. O anche io. Piotta, allora, questa petizione che avete firmato, peccato capitale, contro gli sgomberi dei campi rom nell'anno del giubileo, chiedete un anno della misericordia, siete soddisfatti? Questa settimana il Papa ha incontrato 5.000 rom, dicendo loro, tra l'altro: non date ai mezzi di comunicazione occasioni per parlare male di voi. Una frase che ha anche fatto un po' discutere. Sì, cioè insomma ora quello che ha fatto il Papa, diciamo, lo sanno tutti. Ci tenevo insomma a ribadire il mio sostegno alla campagna, cosa sì. che ho fatto e che rifarei, era già tra l'altro quest'estate c'era stato un video. Io e il Germano sullo stesso tema, che è un tema sicuramente molto difficile, molto complesso e con molta ignoranza, ma non perché io sappia tutto, tante cose devo saperle, tante cose le ho studiate insomma poi recentemente, sulla realtà rom e sinti, che è davvero complessa, non solo a livello culturale di gruppi, ma anche proprio a livello di leggi, perché poi i campi rom sono illegali, nel senso, quindi comunque non ci dovrebbero essere, quindi l'appello, cioè quindi sgombrarli potrebbe sembrare positivo, in realtà non è cosa di legalità. Certo, non è assolutamente così, perché non c'è un piano abitativo strutturato, c'è solo uno sgombro forzato, quindi spesso in 24 ore, insomma quelli con le ruspe tanto amati da alcuni. E non è una soluzione, non c'è un piano alternativo. Peggiora, anche qualcuno che mi scriveva, ah, ma te così sostieni gli stranieri e non gli italiani, premesso che molti rom sono italianissimi, esatto, alcuni anche e tutti lo dimenticano. Diciamo la verità, sui rom nessun governo, né la Lega, né il PD, hanno mai trovato una soluzione in nessuna città. È un problema difficilissimo da risolvere, sì. E concretamente, al di là dei proclami o degli schieramenti di pancia che uno può fare, poi diciamo appunto soluzioni concrete non ce ne sono molte all'orizzonte. Quindi dicevi, ci tenevi a ripetere che in 24 ore insomma fare uno sgombro non giova a nessuno, aumenta solo i disagi di tutti quanti. Però, sia che nel campo che fuori, e i tanti minori poi logicamente che ci sono. La cosa che mi ha colpito del vostro appello è che voi dite, proprio nell'anno del giubileo annunciato da Papa Bergoglio qualche mese fa, stanno, e anche proprio perché ci sarà il giubileo, per fare ordine, per fare un po' di pulizia anche, per avere un'immagine della città più accettabile, si fa uno sgombero. E per esempio padre Zanotelli, Alex Zanotelli, dice, noi vogliamo un giubileo che metta al centro proprio gli emarginati, i maltrattati, gli ultimi. Anche perché dovrebbe essere un giubileo dell'accoglienza. E quindi della misericordia, quindi esatto, diciamo che non si capisce. È un po' uno simbolo, ruspa e misericordia, mi suona un po' strano, però è un bel titolo, ruspa e misericordia comunque. E quindi, ma è un tema però complicato, e devo dire che spesso tira fuori il peggio di con noi, nel senso non di noi tre, ma comunque sì, di ognuno molte persone, perché c'è appunto anche tanta ignoranza, l'ignoranza mette paura, la paura porta le persone poi a chiudersi, a reagire molto male, tanto che io stesso ho ricevuto l'altra volta, Elio, abbiamo ricevuto tantissimi insulti, diciamo, alcuni anche divertenti, tipo supplico le braccia che parla, che sarei io. E come supplico le braccia? Sì, beh, sai, i romani sono sempre un po' molto fantasiosi, sì, zecca da centro sociale, era già un po' più atteso, sono un tuo ex fan, adesso appena certo, ti vedo ti testo, cioè cose anche discutibili. E però ecco, mediamente tira fuori il... E poi non è che queste persone propongono una soluzione alternativa, nella loro in realtà la cosa brutta è che secondo me dentro di loro, cioè, ma che me ne frega, cioè, ma fateli fuori, cioè non mi interessa, basta che non li vedo e non ci sono, ma non è una soluzione se non praticata purtroppo insomma in passato, dove furono uccisi più di 500.000 di rom, che spesso nessuno ricorda, ma anche loro sono stati una delle vittime del genocidio di massa del nazismo, e poi non so perché i popoli più antichi, cioè appunto loro insieme al popolo, agli ebrei, sono quelli più odiati per certi versi, invece sono portatori anche di culture millenarie che dovremmo insomma tutelare. Senti Piotta, un'ultimissima cosa voglio chiederti, qualche giorno fa alla Festa del Cinema di Roma, tu ed altri artisti, tra cui Beppe Fiorello, Massimo Ghini, credo diciamo in una iniziativa voluta anche dal Ministro per i Beni Culturali Franceschini, avete fatto un nuovo appello, avete rilanciato contro la pirateria, artisti in rete in questo caso è l'hashtag scelto, sappiamo bene di che cosa parliamo, però esiste ancora la pirateria all'epoca di Spotify, di Netflix, dove si scarica, cioè la gente fa ancora le copie sui CD dei film o delle canzoni? No, le copie le fa magari che è un po' più adulto, perché è abituato ancora al supporto, no, fisico, insomma, sì, del CD o quello che sia. Però e li trasporta anche in VHS quello di solito, sì, perché ci sì, tiene. Anche in Beta 2000, insomma, come quello precedente. E in realtà però pirateria è tutto, è anche insomma il download quando non è legale. Devo dire che dice contro la pirateria, è stato molto più complesso il dibattito. Io stesso ho detto la pirateria c'è, è un problema, ma è anche stato motivo di grande sviluppo, quantomeno in ambito musicale, perché se c'è lo Spotify che abbiamo citato, sì, così come iTunes, è anche merito della pirateria, perché ha costretto poi... Sono contento sentirti dire quello, perché io non ho, anche ho una posizione nei confronti di quella che viene chiamata pirateria, dove da un lato capisco, ovviamente c'è un problema di SIAE e sono pure vivo pure di quello, quindi ci mancherebbe altro, però penso che i vantaggi che abbiano portato anche il fatto che uno ha la possibilità di scaricarsi qualunque cosa, di vedere qualunque cosa e dopo magari andarsi anche a comprare i CD, penso che abbia anche dei vantaggi, quindi sono contento di sentirti dire questo. Sì, mi sono stupito che l'ha detto anche Mazza, presidente un po' a rappresentare tutte le multinazionali, tanto che dentro di me, perché poi l'ha detto dopo, ho pensato, ho sbagliato qualcosa in quello che ho detto, però no, al di là delle battute mi ha fatto piacere che anche la parte più tra virgolette reazionaria invece si è espressa in tal senso, perché ha riconosciuto che comunque c'è stato uno sviluppo delle forme, no, in cui il mercato appunto arriva al pubblico, e tra l'altro anche con dei numeri rassicuranti, perché il mercato digitale è in crescita, anche quello fisico, insomma, quello del CD, vinile e dintorni, si è stabilizzato, anzi con dei risultati anche bene, insomma, viva la musica, viva l'arte e viva anche l'industria musicale. Grazie Piotr, posso rubarvi 30 secondi per invitare chi è a Milano, logicamente è stato in tutta Italia e parte il tour a breve, però domenica suonerò a Milano, domenica 8 novembre al Teatro Out Off per il quarto festival dei beni confiscati alla mafia. Fantastico. Io e il Muro del Canto, comunque ho fatto 7 Vizi Capitale, il giudice Caselli, insomma, e tante personalità. Molto si può fare tutto ciò, molto. Quando è la data che diciamo? L'8 novembre. Tra l'altro siete ufficialmente invitati. Grazie, molto volentieri. Domenica 8 novembre, Teatro Out Off via McMahon, alle 8:30, perché è free entry, è piccolino e quindi spiegatevi. Perfetto. E invece oggi alle 10 siete tutti al Parco degli Acquedotti per ricordare Stefano Cucchi, giusto? Sì, ci sarà questa maratona di 4 km, una un po' più lunga, ma logicamente il senso è soprattutto quello di ricordare Stefano Cucchi e stare vicini ancora una volta alla famiglia. Perfetto. Grazie ciao, mille. Buona sera, ciao. Ciao. Allora, 800 24 00 24, abbiamo Francesca Carla che ci chiama da Monza. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Ah, chi vorrei riportare in vita io? Sì. Per migliorare anche questo mondo. Sì. Madre Teresa di Calcutta. Beh, una che insomma ci ha dato dentro, Sì, era una tosta, sì, una grande donna, veramente. Ma lei parlava con capi di Stato, parlava con i più umili, parlava con tutti e cercava di dare a tutti qualcosa. E poi diceva, no? Diceva che la povertà dei popoli si poteva sconfiggere, no? Se gli uomini mettessero da parte anche un po' l'egoismo e tutte queste cose qua. Ma c'è un'altra povertà, diceva che ce n'era un'altra, quella del cuore, quella che è dentro l'uomo, oppure il buio che ha l'uomo dentro, perché ci sono persone che sono... hanno tutto eppure sono disperate, quella diceva che è più difficile da sconfiggere. Ma secondo me veramente il mondo, secondo me, il mio pensiero molto semplice, di persona semplice, penso che il mondo va male, tutto va male, dai, sì, vabbè, inutile dire. Adesso no. Siamo in tanti. Fermiamoci con la vocazione di Madre Teresa, perché sennò ci butti giù il morale. Grazie Francesca per averci chiamato. È un'evocazione notevole questa qua di Madre Teresa di Calcutta, tra l'altro in un colpo solo ti porti a casa una che ha fatto del bene chissà quante persone. Si potesse calcolare proprio materialmente, fisicamente, il numero di persone che questa donna ha aiutato. Nicola da Bari, buongiorno. Nicola, sì, da buongiorno. Bari. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io l'uomo che praticamente vorrei che ritornasse tra di noi è Sandro Pertini, il grande Sandro Pertini. Eccolo là, l'abbiamo detto in apertura perché ci stava tutto. Sì, perché Sandro Pertini c'è tutto, ma la cosa più importante di Sandro Pertini è la sua sincerità, sì, il suo voler bene alla nazione, al popolo italiano, ma soprattutto di una grande, grandissima dignità. Ma senta, adesso è scomparso. È vero, è scomparsa, ma lo vorrebbe come presidente della Repubblica o lo preferirebbe in qualche altro ruolo in questo momento? Beh, in questo questo momento come Presidente della Repubblica. Non come Presidente del Consiglio. Aveva polso e poi oltretutto era un grandissimo sportivo. Questo dobbiamo dirlo anche. Grazie a lui nell'82, quando abbiamo vinto anche i campionati, lui era in prima fila. Sì, vabbè, adesso se no sembra che abbiamo vinto grazie a Pertini. Però Nicola, le voglio chiedere, ma è più nostalgia proprio di Pertini o anche un po' di quell'Italia lì, quando c'era appunto l'Italia che vinceva i campionati del mondo con Zoff, Gentile, eccetera, oppure gli anni 80. C'era ancora Berlinguer, oppure c'era ancora Moro, non lo so. No, Moro non c'era. Sì, più. Effettivamente è un po' anche quella nostalgia di uomini veri, di uomini sì, che veramente amavano l'Italia, che avevano uno spessore non solo politico. È quella generazione, quasi quella generazione lì che lei dice che vuole evocare. Va bene, grazie Nicola, mettiamo agli atti anche questa telefonata. Sarà difficilissimo assegnare il premio oggi perché sono talmente tanti i personaggi, bisognerebbe guardare la motivazione. Sono battaglie difficili, Pertini contro Madre Teresa, contro Gandhi, contro Andreotti, non lo so come si farà a dare un premio. Facciamo, chiudiamo allora con Flavio prima di andare in pubblicità. Flavio, buongiorno. Ciao ragazzi, grazie per avermi chiamato. Io avevo pensato a Mattei, Enrico Mattei, che ha presidente l'Italia, e tutti quei personaggi tipo Olivetti, La Pira, che non guadagnando quello che guadagnano adesso i Marchionne, esatto, che poi magari distruggono quello che hanno creato questi personaggi. Insomma, sono dei personaggi che guadagnando pochissimo hanno reso grande l'Italia quando veniva fuori dalla... Beh, pochissimo Olivetti, non è che si può dire guadagnando pochissimo, però è giusto, e tra l'altro erano degli imprenditori illuminati. Ascoltami, io ho trovato delle persone giovani che arrivavano da Ivrea e che per Olivetti hanno una... che ne so, un riguardo pazzesco. Certo, ma ci mancherebbe. Che ha costruito case per tutti, librerie, biblioteche. Delle cose incredibili. Mattei, ecco, che quando qual è Flavio, io... se volessimo raccontarla a un ragazzo che puta casa adesso ci sta ascoltando, un ventenne, un trentenne, qual è la grandezza di Enrico Mattei? Quello di aver combattuto contro le famose sette sorelle e di aver costruito l'ENI. Le compagnie petrolifere, di aver costruito l'ENI. E reso l'Italia una nazione degna del G7. Bene. L'ha portata lui. L'ultima cosa, mi sarei aspettato che Piotta indicasse Rino Gaetano, perché è stato un grande, le sue canzoni uniscono l'Italia e ancora adesso sono attualissime come Reggae Q. Verissimo, però ha scelto un duo Iannacci Califano che, avendoci lasciato quasi in contemporanea, è bello che l'abbia riconosciuto un po' riunendo Milano e Roma. Grazie Flavio, grazie. Poi non mille. Me lo sarei aspettato in effetti da Piotta, Iannacci e Califano. È stato un bellissimo divertente tandem. Ci sentiamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cos'è Halloween? Che cosa significa? Da dove viene? Dal mondo anglosassone? Dall'America? Quando eravamo piccoli noi gabardini non c'era Halloween, c'era solo nei libri di Linus, di Snoopy. Beh no, si iniziava poco, lo invidiavamo poco, perché lo vedevamo nei film. Effettivamente è una tradizione che non è nostra, quindi non c'è anche da chiedersi perché mai noi dovremmo festeggiare Halloween. Poi chi si diverte a farlo va benissimo che lo faccia, non mi sembra un problema. Una festa che comunque evoca l'aldilà, il mondo dei morti, e fra due giorni si commemorano i morti. Anche da noi ne parliamo con una persona che ha qualcosa da raccontarci. Lui è stato il fondatore e presidente dell'Associazione dei Cimiteri Significativi in Europa. Adesso è direttore della Reggia di Caserta, autore di numerose pubblicazioni. Mauro Felicori, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ha cominciato, diciamo, a interessarsi alla materia, soprattutto dal punto di vista, diciamo, dell'attrattività del mondo dei cimiteri. C'è un'attrattività, questo è inutile negarlo. Ma diciamo che è un mondo, fino a 10 anni fa, un mondo largamente sottovalutato. I complessi monumentali cimiteriali in Europa sono fondamentali dal lato dell'architettura, dell'arte, e sono la memoria delle nostre comunità. Eppure, nonostante questo, nonostante che non si possa scrivere una storia dell'arte senza passare dai cimiteri, erano come dei non luoghi. Era calata sui cimiteri una specie di cono d'ombra legato alla superstizione, all'ignoranza. Beh, certo, sarà che non sono luoghi particolarmente allegri normalmente, quindi uno magari se ne tiene alla larga, se non è costretto. Ma guardi, no, ci sono tante persone, sì, che frequentano i cimiteri passeggiando, e ne trovano fonte di meditazione, di riflessione. Certo. Guardi, la nostra generazione, i nostri genitori, i nostri nonni usavano, portavano anche i figli, quanti intellettuali lavorando a questa riscoperta dei cimiteri ho incontrato e raccontavano che i loro nonni li portavano bambini, e anche oggi sono diventati poi luoghi attivi, si fanno concerti, si fanno visite guidate, oggi nelle principali città europee ci sono programmi che invitano i cittadini a riscoprire questo patrimonio. Tra l'altro c'è questo tema della memoria di cui si parla sempre più, e se ne parla proprio perché la stiamo perdendo. Sono dei bellissimi luoghi i cimiteri, come diceva Foscolo, sono dei luoghi che fanno nascere sentimenti buoni, ed è vero, perché sei lì e in qualche modo ti senti un pezzo dell'umanità tutta insieme ai morti. Esatto, e quindi in questi anni abbiamo rimesso i cimiteri al loro posto, cioè dentro la storia dell'architettura e della scultura. Lei immagini chi debba scrivere la storia della scultura degli ultimi 2 secoli come fa, senza passare nei cimiteri dove c'è forse l'80-90% delle arti plastiche. Dunque l'occasione della commemorazione dei morti è un'occasione anche di riscoperta di questo patrimonio, e questo abbiamo fatto con questa associazione che ormai raccoglie alcune centinaia di comuni in Europa, ministeri. Sì, sì. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto il circuito dei cimiteri come uno degli itinerari culturali europei, è stato premiato da questo circuito dall'Europa Nostra Award, che è il principale premio dei beni culturali in Europa. Ne voglio ricordare alcuni, giusto per chi si fosse distratto negli ultimi anni, che sono altrettante, diciamo, mete possibili anche per dei pellegrinaggi. Abbiamo Père Lachaise a Parigi, dove ci sono tantissimi personaggi importanti, uno su tutto Jim Morrison per esempio, ma c'è anche Honoré de Balzac, tutti gli scrittori francesi. C'è Londra Highgate, credo che si pronunci così, dove ci sono Karl Marx, sì, Charles Dickens. Sono belle queste accoppiate, Max Dickens, Morrison, Balzac. È un bel articolo del Corriere qualche tempo fa. Mosca, dove sono tutti i grandissimi scrittori russi. Novodevichy si chiama? Novodevichy? Sì. Mm-hmm. Vuol citare qualcosa anche lei in particolare? Guarda, intanto cito perché proprio di recente a Bologna è stato sepolto Lucio Dalla. Alla cura del comune è stato sepolto vicino a Torino Respighi e a Giosuè Calducci, in un luogo frequentato da tanti appassionati. Ma come mai i cimiteri italiani sono meno valorizzati dei cimiteri degli altri paesi? Nel senso che negli altri paesi mi sembra che ci sia questa questione del turismo, di visitarli, sì. E noi siamo un po', noi che in realtà, appunto, dal punto di vista dell'arte dovremmo essere in altissima classifica, invece sui cimiteri siamo in bassa classifica. Come mai? Ma guardi, innanzitutto i cimiteri italiani sono i più belli d'Europa. Non è completamente vero. Diciamo che in Italia il patrimonio culturale è così grande che la concorrenza, chiamiamola così, fra virgolette, è molto forte. Ma pensiamo, il cimitero cattolico di Roma, per esempio, dove c'è la tomba di Gramsci, per dire, lì alla piramide, è un cimitero. molto seguito. Il cimitero di Staglieno, studiato da Franco Sborgi, è un cimitero formidabile, la Certosa di Bologna è molto importante. No, no, ma che siano formidabili non c'è dubbio, anche il Monumentale a Milano ci mancherebbe. Il Monumentale di Milano addirittura, sono... arriva fino a Lucio Fontana. Insomma. Però poi quando ci sono queste classifiche degli stranieri che fanno le classifiche dei musei, mi sembra che noi compariamo un po' meno, sbaglio? Sì, un po' meno sì, un po' meno sì, ma insomma penso che dobbiamo andare orgogliosi non solo del patrimonio che abbiamo ereditato, ma anche dell'attività che fanno tanti comuni e tanti sindaci che dedicano attenzione a questo. E adesso io sono andato a lavorare a Caserta. Sì, certo, certo. Quindi, anzi, esempio, adesso le vogliamo chiedere un po' anche come si trova, perché la Reggia di Caserta è un posto un po'... è uno dei nostri temi, è una pietra angolare. Che uno dei cimiteri più interessanti è proprio a Napoli, ed è stato disegnato da Ferdinando Fuga, che assieme al Vanvitelli, che fa la Reggia di Caserta, è stato uno dei grandi architetti della storia napoletana. Sì. Forse è l'unico cimitero veramente illuminista e direi materialista che ci sia in Europa. I cimiteri sono molto segnati poi dalla successiva cultura romantica. Senta, però le voglio chiedere anche a lei, Felicori, una cosa, perché come sempre ogni volta che si arriva in questi giorni c'è Halloween, leggiamo di alcuni di polemiche contro questa festa, alcuni preti magari non avallati dalle alte gerarchie vaticane che se ne fregano di Halloween, non la prendono troppo seriamente, però dicono è una festa satanica, non bisogna festeggiare. Al di là poi di questo, anche lei è tra quelli che prendono le distanze da Halloween, che festa straniera, festa anglosassone, festa che non appartiene alla nostra tradizione, oppure invece lei l'apprezza e l'approva? Ma no, guardi, io scusi, mi comporto come le altre gerarchie della Chiesa. Se ne frega. Diciamo, sì. Un po' sì, nel senso che non vedo particolari ragioni per sostenerlo né per avversarlo. Non mi sembra neanche un fenomeno molto diffuso, ma mi sembra una delle tante occasioni per far festa. Ecco, non mi sembra neanche profondo, non vorrei neanche esagerare nel criticare, sì, perché mi sembra un rapporto abbastanza superficiale. Diciamo, non è un argomento che io conosco bene, la mia generazione non ha neanche saputo, quando avevamo 20-30 anni Halloween non c'era. Non sapevamo nemmeno la data. Va bene, una festicciola un po' come il carnevale, forse anche con meno significato. È una specie di carnevale autunnale, sì. Vabbè, che spezza un po', diciamo, la monotonia tra la fine dell'estate e l'arrivo del Natale. Ma non vabbè che prendersela con qualcuno che fa festa, no? Bravo, giusto, giusto. Insomma, quindi, senta, Felicori, diciamo, mi tengo sereno. Le voglio chiedere, lei l'ha detto, nuovo direttore da pochi mesi della Reggia di Caserta, io ho detto una pietra angolare un po' della rinascita, speriamo, del patrimonio artistico italiano, se ne parla moltissimo. Franceschini questa settimana ha parlato, ci vorrebbero i caschi blu dell'UNESCO, dell'ONU, per tutelare il patrimonio culturale nel mondo. Mi sembra una proposta un po' ridanciana, però insomma, intanto lì alla Reggia di Caserta come va? Ma sono direttore da 20 giorni, diciamo, quindi non da tanto. Fresco di nomina, come si suol dire. Sì, guardi, la Reggia di Caserta purtroppo, diciamo, per amore dei casertani e della Reggia, si mette molto in evidenza questo o quel difetto che pure ci sono. Quest'estate avrà ricordato la foto che ha girato dei bambini che facevano il bagno nella fontana, ma sono piccole cose rispetto alla grandezza del monumento. Stiamo parlando di un monumento straordinario, addirittura fuori scala. Insomma, la prima cosa che si nota arrivando alla Reggia di Caserta sono le sue dimensioni monumentali, sia del palazzo che del parco, che veramente vanno misurate non in relazione a Caserta ma al sistema napoletano. Ma lei è tra quelli che sono favorevoli, diciamo, alla valorizzazione, all'utilizzo, allo sfruttamento delle dimore storiche, o diciamo, in quanto responsabile Reggia tende di più a valorizzare alla tutela? Ma certamente, diciamo, sono due doveri. La tutela è un fatto imprescindibile, cioè la tutela non è che si può discutere. Noi ereditiamo un monumento che dobbiamo consegnare ai nostri figli addirittura migliore di come l'abbiamo ereditato. Sulla tutela non si discute. Dentro la tutela abbiamo l'obbligo, non il diritto, di valorizzare, perché la cultura deve essere comunicata, deve essere trasmessa. La valorizzazione è trasmissione, comunicazione culturale, cioè i beni culturali devono servire a rendere i nostri cittadini più colti, più sensibili. Mm. Oggi si paga un biglietto per entrare alla Reggia di Caserta, Felicoli. Quanto si paga per entrare alla Reggia? Si paga 12 euro per la visita completa, sia okay. Palazzo che la Reggia, quindi insomma, quanti... in relazione al monumento è è una cifra anche congrua, anche se diciamo non è una cifra piccola, onestamente. Andrebbe forse inserita magari in un percorso dove magari con lo stesso biglietto si riescono a fare altre cose. Sì, possiamo forse offrire di più. Adesso si entra anche a Expo, tanto ormai chiude oggi. Quanti visitatori avete fatto? Cioè, non lei, perché è arrivato da poco, nell'ultimo anno. Adesso siamo a circa 400.000, quindi 400.000. Quindi bisogna arrivare a, che ne so, almeno a 500.000. Ma certamente speriamo anche di più, nel passato ne ha fatti anche di più, anche perché speriamo. Finalmente con la riforma le entrate che saremo in grado di procurarci resteranno al museo e diventeranno attività della Reggia stessa. Quindi un incentivo in più, certo, sì, questa è una delle novità, è vero. Non per tutti i siti, ma per molti. Grazie Felicoli, dobbiamo fermarci qua perché siamo in attesa delle informazioni sul traffico. Grazie per essere stato con noi. Che facciamo? Ci fermiamo? Certo, torniamo, ci fermiamo. C'è 800 24 00 24. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. È il momento di un appuntamento, l'appuntamento con le storie di protezione di AXA Italia, una campagna di comunicazione che potete ascoltare anche su Radio 24. Sono state selezionate le 8 storie finaliste del progetto Nati per proteggere. Il progetto di protezione più significativo lo trovate sul sito, vince un premio da 50.000 euro. Sono onlus, iniziative di volontariato, quindi è giusto aiutarle a vincere questo premio. Potete votare dal 5 ottobre fino al 13 di novembre. Oggi vi facciamo sentire altre 2 storie di protezione. Vai. Gli Orti di Itaca è la storia di protezione nata all'interno della comunità per minori di Fornovo, in provincia di Parma. A scoprire che la cura di un orto era un'attività utile per la comunità, ma anche per sé, è stato un ragazzo di 17 anni proveniente dal Ghana, dove aveva perso entrambi i genitori. Ora la comunità vorrebbe offrire ad altri minori in difficoltà questa opportunità, come ci racconta Maristella Angeloro. Gli Orti di Itaca sono un progetto appunto della Si può fare, cooperativa che nasce e gestisce dal 2011 una comunità socioeducativa per minori sulle prime colline in provincia di Parma. E durante il nostro percorso ci siamo trovati ad accogliere ragazzi che, arrivati alla maggiore età, si ritrovavano spaesati davanti ai problemi che il mondo adulto li chiamava ad affrontare. E abbiamo così deciso di accogliere alcuni di loro negli Orti di Itaca. Al momento 2 ragazze aderiscono al progetto, vivono in un appartamento messo a loro a disposizione della cooperativa e lavorano con dedizione la terra. Abbiamo bisogno di espandere il nostro orto per poter offrire ospitalità e opportunità anche agli altri neomaggiorenni. L'orto è un progetto che vuole autofinanziarsi e il principio chiave della Si può fare è quello che ogni persona, prima che un problema, è prima di tutto una risorsa per se stessa e per la comunità. Il finanziamento del concorso servirebbe in primo luogo a potenziare la rete di vendita. Investiremmo per la messa a punto di un sito che permetterebbe di fare gli ordini online e quindi avere maggiore visibilità e clientela. Acquisteremo anche un furgoncino, del materiale per la bancarella e delle serre per far sì che ci sia un incremento delle vendite e di conseguenza il progetto arriverebbe ad autosostenersi del tutto. Cosa c'è di meglio di una buona lettura per affrontare la convalescenza dopo un periodo di malattia? A questo hanno pensato alla Fondazione Alberto Colonnetti quando hanno dato vita al progetto Biblioteche Ospedaliere, volontari che offrono libri in prestito alle persone, bambini e adulti ricoverati negli ospedali di Torino. Un progetto di protezione di cui ci parla Raffaella Bellucci Sessa, direttrice della Fondazione Alberto Colonnetti. Mi chiamo Raffaella Bellucci Sessa e sono la direttrice della Fondazione Alberto Colonnetti di Torino, che vi chiede il voto attraverso Nati per Leggere. È un'istituzione culturale unica in Europa, una biblioteca storica che conta 15.000 volumi di letteratura dell'infanzia dalla fine del Settecento a metà del Novecento. Oltre ad essere quindi un luogo per studiosi e appassionati del genere, è un luogo di ritrovo e di incontro e di ascolto per bambini, ragazzi, educatori e adulti che hanno voglia di confrontarsi. Quello che ci sta particolarmente al cuore, oltre alla sopravvivenza della struttura, è la possibilità di poter digitalizzare almeno i testi più preziosi perché non vadano perduti. Vi ricordo che occorre votare sul sito www.nattiperproteggere.it. Voto da dato a un tesoro culturale. Grazie ancora. Ed eccoci qua, siamo in chiusura, ci scusiamo con il sindaco di Verbania che diciamo a cui si è aggiudicato il primo posto nella classifica della qualità della vita Lega Ambiente Sole 24 Ore perché non abbiamo avuto il tempo per intervistarlo. Ma lo sentiamo un'altra volta, molto volentieri. Invece ci risentiamo domani. Dobbiamo dare il premio, vince il premio chi ha detto il personaggio Totò che era Filomena da Sale.